Però adesso mi manca. Rimettimi l'ego. Mi facevi compagnia comunque. E vabbè, mo la prossima, l'ego. La prossima puntata torneremo con l'ego. Con l'eco, anzi, scusate il lapsus. Con la eco, l'eco. Perché femmina l'eco, questa cosa non... Bene, allora capacità, ho capito perché. Un po' di disclaimer, un po' di cose, giusto perché domani mattina esce alle 7. Abbiamo sbagliato. Gli scimmioni non leggono Nietzsche, ma questo insomma si sa, insomma, che il martedì, oramai è stato spostato il martedì questa pubblicazione, ma soprattutto vi ricordo che mercoledì sera alle 22 ci sarà una grande live di archeologia informatica sul canale ovviamente YouTube, e poi ci sarà, insomma, quando eravamo futuro, giovedì, che parleremo spazio 1999, ma addirittura poi volevo dire anche un'altra cosa che è molto più attinente, ma me la sono dimenticata, quindi questa è una cosa... Allora, mentre tu te la fai ritornare in mente, io volevo dire solo una cosa, perché credo che sia la quintessenza della radiofonia, del podcast italiano e tutto. Sì? Cristo, ah. Madonna. Bravo, ecco, vedi, mi hai spoilerato, perché praticamente è uscita la nuova puntata di Data Nightmare, che sarà probabilmente una puntata che insieme forse l'ultima magari insieme a tutte le altre che verranno ricordate per il valore contenutistico, diciamo, questa secondo me passerà alla storia. Avrà, secondo me ci saranno delle reazioni a questa cosa, perché una persona comunque, anche se come posso dire, rantolosa, diciamo, ma sempre con garbo, sempre con rispetto, e insomma in quest'ultima puntata se ne è uscita con una biastima che io poi, diciamo, avevo già spoilerato. Il posatissimo Walter Vannini si è prodigato in un'esternazione leggermente fuori dai suoi canoni abituali. Esatto. Però ciò penalmente perseguibile. Sì, dai, non arriva a quel livello. Diciamo che è un'imprecazione, ma non è poi così offensiva da poter, diciamo, secondo agire il Nuovo Testamento potrebbe esserlo, però se proprio deve, ma lui ha messo semplicemente due personalità mitologiche, una appresso all'altra, insomma, quindi non è che le ha apostrofate in qualche modo. A parte che mitologico è un cazzo, Madonna esiste. E canta ancora. E Cristo? Cioè. Cristo c'era un giocatore di calcio. C'è anche pezzo, un modello che si chiama così. Sì, è vero. Allora, a parte che Cristo è un artista greco, ma poi c'è Cristo Stoichkov. Anche, bravo. Cristo, sì, ma ce ne stavano diversi dei Cristi, comunque. non è un caso, diciamo, questa cosa, insomma, è importantissima. Comunque, niente, è uscito Data Nightmare, domani mattina esce Scimmioni, mercoledì c'è questa bellissima live di archeologia informatica, venite, e soprattutto, ragazzi, permettetemi, e poi iniziamo con la puntata, di ringraziare tutte le persone, e sono veramente tante questo mese, che hanno fatto una donazione a Runtime Radio, perché ci hanno veramente levato le cosiddette, come dicono i francesi in Francia, dicono, usano questo termine, le castagne dal culo, ecco, diciamo, insomma, così. Oh. Che è così. Perché nel culo c'è il fuoco, ricordiamo. Esatto. Boh, io voglio dire, ovviamente non vorrei che poi si facessero dei paralleli strani col fatto che, insomma, tutti quelli che noi ci stiamo facendo la barca, cioè questi sono assolutamente, non facciamolo, diciamo, prima, non noi, fate, noi ci facciamo la barcam la barcam oppure quei soldi ci servono, perché ste castagne nel culo ci saranno finite in qualche modo, questi soldi ci servono per pagare la gente che ci edifica. Il fatto che, voglio dire, infatti, le vendiamo ai Casa Monica le castagne che abbiamo nel culo, svoltiamo, insomma, perché con quello che poi le fanno pagare al povero turista a Piazza di Spagna, ricordiamoci, sì, diciamo che tre castagne 10 euro, una cosa del genere, insomma. Quando Walter ha detto, giustamente, vogliamo precisare, che io pensavo che la precisazione più che sulla barca fosse sul fatto che non è che a noi ci piacciono le castagne nel culo, insomma, però può essere, a te guardi, però parlo per te. Si sa, no? Fa bene la pelle, fa bene i capelli, se te meglio. Esatto. Però certo che se ti ritrovi le castagne nel culo qualcuno te le deve togliere, insomma, cioè, farlo da solo è un po' complicato, cioè. Ringraziamo Mario Trani invece, che dice che si è ascoltato la nostra prima puntata di Social Media Edition in loop mentre scavava, insomma, lì tutto il problema che c'è. Facciamogli anche un in bocca al lupo, perché ovviamente lui vive nelle zone devastate dalle acque dell'isola di Ischia, e quindi, insomma, ha subito meno danni di altri, però comunque sia, la situazione non è allegra per nessuno. Sì, lì, anche perché lui ha la casa più alta che c'è su Ischia, capito? Quindi al massimo è lui che frolla addosso all'altro, insomma. non è una bella cosa. E intanto come si è spento il monitor, così. Vabbè, a questo punto possiamo andare, no? Abbiamo fatto, io direi, fare. Direi di sì. Ok, andiamo, grazie, arrivederci. Ciao. È stato bello. Ah, voglio solo dire una cosa che è legata ai mondiali di calcio, dato che ci siamo. Cosa? Mondiali di calcio. Ci sono, sono. Ah, io li boicotto. Allora, quando escono i ieri sera eravamo a cena con Walter Sbano e Gualdi e un suo amico e ci siamo andati a mangiare il ramen dal cinese. Era tanto tempo che non mangiavamo questo ramen, so che all'ascoltatore interessano comunque questi dettagli, queste cose così, no? E durante questa conversazione abbiamo parlato del fatto che questi mondiali passeranno alla storia perché le partite non finiscono praticamente, cioè le partite praticamente durano almeno dai 10 ai 12 minuti in più di quanto poi in realtà dovrebbero durare, no? E praticamente questa cosa non è stata regolamentata, cioè non fa parte del regolamento, ma è un'indicazione di Collina che al Collegio Arbitrale Internazionale ha detto: cercate di recuperare quanto più tempo possibile per evitare le perdite di tempo. Ora è vero che questa abitudine delle perdite di tempo nel calcio è diventata un po' una palla, insomma, roba del genere, però vorrebbero portare il calcio al tempo effettivo, cioè il che significa che, avete presente, il tempo effettivo è come il basket, cioè il cronometro si muove solo quando l'azione è in movimento. Cioè praticamente le partite dureranno tipo 3 ore almeno, 130 minuti così. No, perché poi cominceranno a perdere meno tempo, folli. Però in realtà lì devi fare, non devi fare più dei tempi da 45 minuti, ma devi fare i tempi da 35, per dire. E poi diciamo che dovrebbe, sì, bisognerebbe un attimo bilanciare, perché se giochi il tempo reale e poi alla fine insomma diventa anche atleticamente un po' più faticoso, sì. Perché poi non è che sì, no, diciamo che non si arriverà mai al tempo effettivo, ma l'indicazione è quella, però va regolamentata sta cosa, perché così no, ovviamente l'arbitro del Abdul Garib Bub, che insomma ancora non ha ben capito com'è, fa durare la partita 12-13 minuti di più, che è una follia, cioè capito, anche, anche televisivamente, perché quella tanto gli inizia la partita dopo nel frattempo, capito? Quindi sì, sì, infatti c'è questo casino, problema di sovrapposizione, gran di casino, slot, gran casino, ma scusa, ma Collina ancora? Sì, cioè sì. Io era un po' di anni che non sentivo sto nome, adesso no, che fa nella vita? Sì, lui è il capo, è il capo degli arbitri internazionali, The Bossman. Esatto, esatto. Ma non ne avevo la più pallida, non ne avevo proprio idea. Vabbè, buon per lui. È il Bossman, è il Bossman. E invece Walter, che dicono quelli? Chip. In realtà oggi, chiaramente, oggi, ieri, il grosso dell'attenzione è tutta sulla questione che è successa a Ischia, perlomeno in Italia, quindi non è che io abbia raccolto tantissime cose, se non il fatto che c'è un rimpallo di responsabilità. Tutti i politici stanno usando la tragedia di Ischia per cercare di sputtanarne altri, quindi oggi è il giorno de Conte, che è quello che ha firmato il condono nel 2018, e quindi è colpa sua se adesso a Ischia c'è la tragedia. Poi va a ricostruire come stanno le cose, non era esattamente un condono, serviva secondo loro a accelerare alcune pratiche relative ai condoni dei decenni precedenti, e oltretutto poi ricordiamocelo che in quel governo Conte era il pupazzo con le braccia di Di Maio e di Salvini nel di dietro che lo muovevano, e nessuno, posso capire, è inutile citare Di Maio che ormai è fuori dai ruoli di governo, però cavolo, se parli male di Conte è fuori dai ruoli e basta, diciamo. Esatto. Penso che stai per dire che con le mani di Salvini e Di Maio nel di dietro per togliere le castagne, sempre per tornare, sempre qui, no, veramente gliele mettevano, mi sa tanto. Però insomma, al di là di questo, voglio dire, perché allora non citi anche Salvini? Voglio dire, se la responsabilità era di Conte a 70.000 tanto, era anche di Salvini, che invece sta in maggioranza e nessuno l'ha nominato. Però vabbè, insomma, il clima di oggi, ovviamente il terzo polo, il Renzi in particolare, il gruppo di Renzi, quindi la Bellanova, ma anche la Boschi, eccetera, che oggi hanno attaccato proprio a brutto muso Conte per questa storia, mentre insomma scavano dalle macerie con le mani per non fare ulteriori danni, alla ricerca di potenziali superstiti, insomma. Quindi non è stato tanto carino, non era questo il momento per cercare di fare una resa dei conti politica, e soprattutto era fuori luogo l'esternazione di Conte, che non se ne è forse neanche reso conto in quel momento, ma ha ben avuto l'ardire di dire: stanno buttando del fango su di me, che non è stata la frase migliore che potesse proferire. Però insomma, diciamo che tolto questo, io comunque mi sono preparato, perché ormai è una rubrica fissa, ma se volete lo facciamo dopo, un paio di perle ovviamente sul nostro quello dopo dai, dopo. Se ce lo sparo, e poi c'ho subito qualcosa anche su Elon Musk, perché ormai veramente uno sta, la gente sta su Twitter solo per vedere che cazzo combina Elon Musk, diciamoci la verità. Infatti è una questione non di ore ma di minuti proprio. Tra l'altro Twitter è diventato un po' una bestia strana, perché io stamattina mi sono svegliato alle 7 con una notifica su Twitter che Twitter ci voleva, mi ci teneva tanto che io vedessi il post di una certa Natasha, che praticamente c'era la foto di lei che si fotografa a mezza faccia e dicendo una volta era una figa, adesso è mezza figa probabilmente. Esatto, perché la esatto metà è andata. No, ma interessante, perché cioè nel senso non so secondo quali algoritmi, quali connessioni mi mandi uno di una completamente sconosciuta che non si sa chi sia, non c'è nessun legame dal punto di vista del following o roba del genere, che non c'ha manco tutti sti grandi ascoltatori, perché sai magari è una che ne so sta nelle vette con sta foto di questa una volta era una figa. Poi non sono andato a vedere i commenti. Non sono andato a vedere i commenti. Vabbè, perché sicuramente sotto ci sarà stata gente che dice: ma sei una figa anche adesso, sei una bellissima donna, io ti massaggerei i piedi, perché c'era questo, esatto, però c'era questo quello che succedeva una volta. Succede ancora, però c'è anche magari che gli risponde giusto. Che è lì. Ah sì, una morte di una figa. È vero. Come passa il tempo? Se lo dici tu, soprattutto, è questa la cosa importante. No, neanche una volta. Prego, Sbano, riprenda. Allora, iniziamo con Elon, lo facciamo subito. Allora, Elon Musk oggi ha avuto la geniale idea di postare una cosa abbastanza agghiacciante. Ma prima di questo, praticamente, ragazzi, Elon Musk sta diventando il Calenda di Twitter, nel senso che pretende di dire agli altri CEO delle altre grandi GAFAM americane come si devono comportare. Ad esempio, oggi, siccome si è reso conto che stanno subendo una sorta di boicottaggio da Apple che gli impedisce il funzionamento corretto della pubblicità su Twitter nell'app iOS, e oltre a quello stava probabilmente per rimuovere l'app Twitter dallo store perché non rispettava i rigidissimi e paraculissimi regolamenti per pubblicare su Apple Store, Musk ha cominciato a twittare come un forsennato, dicendo ad esempio: Apple ha praticamente stoppato la pubblicità su Twitter. Si domanda quindi se loro odiano il libero pensiero, la libera espressione, la libertà di parola in America. E già lì dici: ma subito dopo ha lanciato un sondaggio, ragazzi, che dovrebbe Apple pubblicare tutte le azioni, le motivazioni di tutte le azioni di censura che prende quando queste impattano sui propri clienti. Quindi proprio sta facendo come Calenda, sta cercando di dire ad Apple come Apple deve gestire le cose, no? Come quando Calenda parla del PD. Io mi permetto di fare un'osservazione, poi non lo so, magari negli anni le cose sono cambiate, però anni fa, quando ero bambino, amministratore di un forum molto grande che c'è in Italia. Ed eri bambino. Curavo allora più la parte. Penso, cioè, no, ho iniziato che avevo 20 anni e ho mollato che ce ne avevo 39, quindi sì, so, può essere. Quando ho mollato il colpo ne avevo 39 perché non mi reggeva più il fisico proprio. Venne fatta l'ipotesi di trasformare il forum in un'applicazione che doveva andare sull'Apple Store e sul Play Store di Google. Venne sottoposta a Google, ci ritornò indietro dicendo che avevano dato un'occhiata e si erano accorti che argomenti che venivano trattati in questo forum, il linguaggio utilizzato eccetera eccetera, poteva essere usarono diciamo un giro di parole frainteso. In realtà penso che avessero paura che qualcuno cominciasse, siccome era capitato che qualche saltato lo facesse, cominciasse a inneggiare ai nazisti sul forum con roba tipo quando c'era lui eccetera eccetera. In realtà non succede mai, basta che lasci le registrazioni aperte, succede qualsiasi cosa. Quindi in sostanza Apple, quando ti rifiuta qualcosa, ma in realtà penso anche il Play Store, in realtà te lo dice perché lo sta dicendo, ti sta rimuovendo, ti sta negando l'accesso allo store, non lo scrive pubblicamente perché probabilmente ci sono dei motivi contrattuali per cui non rende pubbliche certe informazioni, ma in realtà perché fa qualcosa te lo dice, è molto chiaro. Poi sta a te dire al pubblico: ci hanno rimosso per questo o per quest'altro motivo. Non se lo tengono per sé. Sì, ma in questo caso, Puccio, credo che il problema sia che sai, hanno smantellato la moderazione, beh, poi si è cagata in mano, ma c'ha ragione. Cioè, pure io fossi Io credo che i motivi in relazione al fatto che aveva postato la questione dell'advertising, io credo che probabilmente con le nuove politiche di blocco dei cookie e dell'advertising di terze parti che ha applicato Apple, evidentemente le piattaforme di terza parte di monetizzazione che usa in Twitter non stavano funzionando. Allora magari Twitter ha provato a forzare via codice qualche scamotage per ripristinarlo, e forse è lì che sono stati minacciati di venire rimossi. Sì, quello è probabile, però è anche possibile che ci sia il problema. Ma secondo me sono stati semplicemente minacciati di venire, che è la cosa forse lì. No, comunque mi è arrivato un messaggio di... anche perché poi dopo ci mettiamo a fare. Scusa, mi è arrivato un messaggio di GGB. Sì, no, ma basta. Un messaggio di GGB. Security Corner. No, è GGB che praticamente credo sia. Credo sia un utente che, cioè, mi ha contattato privatamente, ha detto che quando sente Puccio e Sbano che parlano di cose tecniche si arrapa tantissimo. Quindi non so. Ah, beh, sono contento. Sta toccando. Dice anche, aggiunge anche che più non ci capisce un cazzo e più si arrapa. Bellissimo. Complimenti. Va bene. Comunque, senza entrare nei dettagli tecnici, io un'osservazione ve la butto lì. Io credo che veramente lui non abbia idea, non di come si gestisca un social network, quella non ce l'ha nessuno probabilmente, di come si gestisca una discussione aperta al pubblico su internet, perché se la sua idea è: se non è illegale allora lo puoi dire, qualcuno dovrebbe andare da lui a chiedergli: scusa, illegale dove? Perché se la tua piattaforma è disponibile in tutto il mondo, o devi rispettare le leggi ovunque, perché qualunque stato ti potrà dire, tipo la Germania può dire: pubblicare una svastica per noi va in galera se lo fai su social network, ma in America no. Quindi quale giurisprudenza prevale? Quella americana, che è l'unica ovviamente che vale in tutto l'unica il mondo. Che esiste, che loro riconoscono. In realtà nell'agreement che firmi con Twitter, ma pure con Facebook, tu fai riferimento alla nazione da cui ti registri. Che sono sempre ma gli americani se ne sbattono il cazzo, quindi no, c'è scritto che il tribunale competente è quella della tua nazione, è vero. È la tua nazione, quando tu descrivi su Twitter qual è? Gli Stati Uniti. Sì, io sono dell'Arkansas. Michigan. Io sono dell'Arganon. Dell'Arcazzo. Marco, tu sei del Milwaukee, come minimo. No, lui è un Milwaukee, che è diverso, capito? Cioè, nel senso. Esatto. Tanto io sto mandando un podcast su Twitter, c'è Podcast Movement che ci ha chiesto: senta podcast. Manda un podcast. Mandando. Qui Io però a questo punto vi manderei in chat diretta di Runtime Radio la screen invece di quello che è proprio la perla delle perle di Elon Musk di questa mattina, perché a un certo punto ha deciso di postare la foto del suo comodino. Mando nel senso di Mandalorian. Per capire che durerà pochissimo, ovviamente. Ed ecco la foto del comodino. Ma di chi? Di Elon Musk. Elon Musk. Non so se state guardando. Sì, ce l'ho visto stamattina. Sul comodino c'è praticamente un cannone a canne mozze, oltre che lattine di birra aperte. E subito riceve il commento di un personaggio americano che probabilmente anche non so se è un utente a pagamento, se è un utente riconosciuto, non lo conosco, però ha 500.000 di follower, quindi non è proprio esattamente uno stupido, che è padre. Si chiama Fred Gutenberg, è padre di due figlie, una delle due è morta in un incidente per arma da fuoco a scuola, quindi la classica sparatoria. Diet Coke, ma. Ah, Diet Coke, non sono birre, che vedevo dorato, ok. E ovviamente ha risposto per le rime di Elon Musk dicendo: mia figlia è stata uccisa per una storia di violenza armata, ogni giorno in America tanti bambini vengono uccisi per la stupidità, l'irresponsabilità di adulti che non mettono la sicura alle armi, eccetera eccetera. Dice: seriamente, ma che cazzo di problema hai? Hai qualche problema di tipo mentale? E giustamente dice: hai speso 44 miliardi di dollari solo per incitare alla violenza? Comunque, e posta la anche la foto della figlia venuta meno, insomma. Quindi, ragazzi, la pistola è molto molto cyberpunk, guardatela bene. Sì, ma infatti io me lo sono capito. È una pistola vera o è una pistola falsa? Perché c'è no, perché cioè, se c'è una riproduzione in plastica realistica, io me la compro, me la appendo sul gabinetto. Allora, è carina. Beh, bella immagine che dai ai tuoi figli, Puccio. Esatto, cioè, pensa alla signora che ha perso la bambina a scuola e non l'ha più trovata. Cioè, bah, che brutte cose. Comunque c'è anche una dietro. Questo mi ricorda anche una scena di un mio amico che riceve una telefonata la mattina. Pronto, ciao, senti, c'è tuo padre? No, mio padre in questo momento non c'è. Ah no, perché volevo dire che mia moglie se n'è andata. Ah, e perché dove è andata? Cioè, credo che sia una scena terribile. Una scena terribile. Comunque dietro alla pistola cyberpunk c'è anche una specie di una revolver, pistola della guerra d'indipendenza. Esatto. Quindi sì, c'è sì, questa sì, cosa tra l'indipendenza. Comunque è un bel personaggio Elon Musk. Indipendenza, cyberpunk. C'è cioè qualche. Forse è un messaggio. Secondo me questo è un messaggio. È un rebus. Allora, comunque ha fatto sapere che lui sosterrà De Blasio. Come si chiama il concorrente di Trump? De Santis. Mm. Ok, quindi vabbè. Personaggio sta fuori come un melone Elon Musk, c'è poco da fare. Senti, Enrico può permetterselo. No, beh, sì, è quella differenza tra eccentrico e poi ricordatevelo, ragazzi, è autistico, può fare qualsiasi cosa, cioè nel senso. Appunto. Io vorrei sapere esattamente. Scusi, ma lei perché fa questa cosa? Sono autistico, che va a fare? Io vorrei capire quando è che l'autismo è diventato un superpotere nella Boh, vabbè. Da quando ve lo dico da persona a cui è palesato. Guarda, se in South Park scontri diretti c'era il c'era l'essere anzi no, c'era il diabete come superpotere, sì. No, vabbè, adesso senza passi breve. No, ma perché nella versione precedente del gioco, quella fantasy, le tre classi che potevi scegliere, che non diremo, sì, perché sennò finiamo in galera tutti quanti. Cioè, diciamo che se vi diciamo le tre classi che erano selezionabili, sì, in quel videogioco, Israele ci invade probabilmente domani mattina. Vabbè, se l'hanno messo e nel gioco, tu diceva Cartman, tu allora non ci semplicemente il videogioco, non è che stai a fare, non è che prendi parte alla cosa, insomma, nel videogioco. No, diciamo che potevi fare il mago, il guerriero, il l'ebreo. No, lo voglio dire, ci sono arrivati tutti. Esatto. E poi se sceglievi l'ebreo sentivi Cartman, che era la voce narrante, e dirti allora non possiamo essere amici. C'era un minimo di era leggerissimamente brisciante con Cartman, sì. E intanto il Brasile ha vinto con la Svizzera, quindi insomma il Brasile sta 2-2. Stiamo boicottando a proposito di Svizzera, sì, sì. Dopo quando tocca a me c'è una cosa. Svizzerland, vai. No, vai. Vado io subito. No, aspetta, chi è che stava conducendo la. Perché poi qui io ho detto quello che volevo raccontare di Elon. Okay. Non so se avete dei commenti, quindi insomma. Ma i commenti li abbiamo fatti. Abbiamo già detto i commenti, abbiamo fatti, e poi dopo torniamo a Walter per ovviamente per i noti fatti del nostro, della nostra mascotte preferita. Allora, Francesco, vai, dai. Dai, come sempre io sto. Dopo voglio proporre pure una cosa un pochino più interattiva, diciamo. Può partire una serie. Guarda, però no stasera che non ci sta a sentire nessuno, quindi vai tranquillo. Insomma. Ah, siamo chi se ne frega, con voi. E comunque, a proposito, cioè, mi ricollego subito al fatto della Svizzera, una cosa fresca, sempre nel famosissimo gruppo oramai, il Risveglio Q1776, un certo Dietro Carboni, inoltre a roba abbastanza lunga. Carboni. Le forze tedesche e russe si preparano ad attaccare la Svizzera. È già qua, ok. Le agenzie militari di intelligence occidentali hanno deciso di occupare militarmente la Svizzera per arrestare i massimi leader della mafia kazariana, concordano più fonti. Quali fonti? Le forze armate svizzere sono invitate a restare a guardare è tutto attaccato, non opporre resistenza a questa operazione, che non è diretta contro il popolo, poiché la nazione svizzera, vabbè, è scritta a capo di cazzo, stavolta non sono io che leggo male. Gli obiettivi dell'attacco saranno la BRI, le varie agenzie delle Nazioni Unite con potere extraterritoriale, ovvero le loro sedi non sono in territorio svizzero, il complesso Rothschild a Zurigo e l'enorme complesso di basi sotterranee lungo il confine svizzero-austriaco. L'ex colonnello dell'esercito americano Douglas MacGregor conferma che è imminente un importante potenziamento militare. Dice che lo Stato ucraino sarà annientato da una forza russa di 700.000 nelle prossime settimane dopo che il terreno si sarà congelato. Mille milioni. Secondo diverse fonti. Mille milioni. Che poi scusa, ma 700.000 soldati manco c'entrano in Svizzera, cioè come? No, in Ucraina. In Ucraina. Ok, scusa. Sì, a caso se si è messo a parlare dell'Ucraina, poi vabbè. Senti, ma questo post è scritto tutto in maiuscolo? Perché questo... No, purtroppo no. No, e allora secondo no. Diverse fonti c'è pure la punteggiatura. Secondo diverse si sono impegnato. Allora è serio. Allora è vero. La Svizzera sarà colpita più o meno nello stesso periodo. Ok, un'azione militare parallela avrà luogo per occupare New York e la Silicon Valley. Ma così proprio a caso. Il complesso Microsoft, Amazon a Seattle, aggiungono le fonti. Anche questa operazione è rivolta agli adoratori di Satana e non ai cittadini di queste regioni, si dice. Uno degli obiettivi principali di questa operazione saranno Isam Jase, Pleiadian Anunnaki. Un attimo, che qui stai evocando Cthulhu, che se te sei buono che qua c'è gli la radio subito. No. Già se Pleiadian Anunnaki soprannominati Zio Sam. Comunque ragazzi, sta diventando la trama di Creators, poi fate come vi pare. Meglio. I patrioti svizzeri hanno identificato questo individuo come una delle menti della mafia kazariana. Aspetta. Questo autore è stato più volte invitato. Sì, questo autore è stato più volte invitato in Svizzera per visitare gli alieni di cui le società segrete occidentali di alto livello come il Sole Nero e i massoni P3 affermano di prendere ordini. Il Sole Nero non è la mafia di Guerre Stellari. Sì. Scusa Puccio, visto che ci sei. La mafia di Guerre Stellari. Puccio, posso fare una domanda? Devo fare una domanda seria io. Vai prima. Puccio, scusa, ma gli Xarniani non si erano estinti? Sì. Cioè, allora che cacchio è sta mafia xarniana? Ma la mia domanda seria invece è proprio sono dei, sta quasi finendo comunque, degli impostori. Vai Francesco, dai. Però il problema è che allo poi stesso io tempo lo scordo, l'MI6 e le società segrete asiatiche hanno avvertito l'autore di non andarci perché è una trappola, quell'altra Sole Nero, it's a trap, cioè questi sono fan di Star Wars assolutamente. Indipendentemente che ciò che è vero o falso riguarda gli alieni è un fatto verificabile dal punto di vista forense, che i ragazzi delle BRI, treno eccetera, hanno cercato di spazzare la maggior parte della razza umana. È anche vero che rivendicano l'indipendenza da qualsiasi governo sulla terra. Ad esempio, anche l'autorità di polizia svizzera è vietata di entrare nella BRI, che ancora non ho capito che cazzo è. Il per BRI questo è motivo formaggio. È stato. Ah, sì, ok. Però manca lei finale. Per questo motivo è stata autorizzata un'operazione militare per catturare e neutralizzare questi assassini di massa. Segue e poi c'è tutta. Cioè, allora, secondo me. Volete la mia opinione? Cioè, chi scrive sta roba lo fa con cognizione di causa, cioè non chi pensa che sia vero, però li scrive ovviamente con una struttura, cioè lui questo voleva fare lo scrittore, no? E ha detto, invece tanto non riuscirò mai a fare lo scrittore, quindi scrivo tutte queste puttane tutte insieme, metto tutto quanto dentro che tanto e ovviamente gente ci crederà. E questa, perché secondo me tutti questi gruppi, sai che è faticoso scrivere tutta sta roba, tutti questi gruppi complottisti nascono da uno che scrive della roba che ha una sua coerenza dal punto di vista concettuale. Anche la follia ha coerenza. Però esatto, fare un'altra domanda a Puccio, cioè, questa io voglio sapere, aspetta fammi vedere, ma ci sono dei commenti a questa cosa? Perché a me sono anche commenti sopra. No, purtroppo no. Purtroppo no. Quei gruppi senza, non riesco a trovare Zarniani come l'ha scritto con la C davanti. No, Kazarniani. Kazarniani è la razza la di Bobo della DC. Cioè, quelli sono Zarniani, con la K, cioè. Con la K. Adesso per vedere, cioè, solo uno K-H-A-K-A-Zariani. Fa il cacciatore Kazariani. Kazariani. Comunque, allora Zarniani. Non lo so. Comunque Puccio, esiste, tu che sei informe o informato, non so come sei si dice. Informe. Lui è informe. Informo o informato, non so come si dice questo. Ma esiste un generatore di sproloqui complottisti? Perché, cioè, usiamo? Sì, no, sicuramente no. Ce ne sono. No, ragazzi, questo è scritto bene, sto testo. Cioè, a parte no, questo è uno che ci ha messo la punteggiatura. Ci si è messo lì. Dice, tanto vedrai che qualcuno mi viene dietro. Tanto sicuro, no? Sì, cioè, sicuro. Cioè, io vorrei fare È una speranza di tanti. Io voglio fare. Qualcuno gli viene dietro. Esatto. E voglio fare un esperimento sociale. Cioè, facciamolo anche noi. Quello dicevo, perché se c'è un generatore. Ma intanto... non ci vuole il generatore. Già... Oh, ma guarda, è tanta roba questa. Oh, no, ma vabbè, ma cioè, voi scommette che siamo in grado di scrivere un testo. Sì, ma è troppo impegnoso. È troppo impegnoso. Cioè, complottista applied, come si dice? Complottista free. Free. Complottista approved. Niente, vabbè, questa cosa e vabbè, sapete che queste cose mi attizzano sempre, perché è proprio quello che vorrei capire, esplorare proprio l'aspetto sociologico, capito, della questione. Cioè, andare a parlare con sta gente, perché io qualcuno l'ho conosciuto qui, che hanno gli occhi vuoti, che guardano dritti davanti a sé mentre che tu gli parli, no? Perché cercano, sì, pure io. Cercano nella loro mente le informazioni che a cazzo di cane stanno sparpagliate nel loro cervello. E quindi, capito, vedi che con gli occhi fanno e gli attribuiscono una coerenza, certo. Però tu hai visto mai quando quelle persone muovono gli occhi per cercare nella loro mente di raccogliere il loro palazzo mentale, esatto, di raccogliere le informazioni, no? E insomma, ragazzi, bella roba. Grazie Francesco che ci hai regalato sta perla. Ce ne sono altre, ovviamente non è a voi, però se vuoi possiamo sparpagliarlo un po'. Allora sì, allora c'è dal gruppo Ugo Fuoco, stop dittatura. Questo ovviamente Ugo lo Fuoco leggerò per come è scritto, perché okay. Prima era tutto punteggiatura, ora questo Ugo no. Fuoco, pallino rosso, bomba, traffico di bambini sgominato nel sud degli Stati Uniti, bambini vengono drogati e trasportati dal Sud America privi di sensi da uomini che si spacciano per i loro genitori, trattiamo questo tema da anni. Puntini. Dai, e quando abbiamo iniziato a parlare dei social media, abbiamo contestualmente subito l'immediata aggressione da parte degli amministratori di altri canali, gatekeeper e vari troll. Evidentemente qualcuno l'argomento non piace, non osiamo domandarci il perché. Perché con l'esclamativo, non bambini non si toccano, speriamo di essere stati chiari. Dov'è Bibbiano? Non c'è. Il traffico di bambini coinvolge milioni di minori ogni anno. Questi bambini, grazie al cazzo, sono bambini. Cioè. Questi bambini vengono posti in schiavitù sessuale oppure utilizzati per l'estrazione di adrenocromo ed organi. No. E vai. Fermiamo insieme questi criminali, mostrando alle persone la cruda realtà di tale disumano fenomeno. A seguito di importanti approfondimenti su questo tema fondamentale, bisognate di aiutare, cioè da diffondere diversi link con traffico di bambini in Europa, l'attore Caviezel, tratta sessuale, bambini adrenocromo. L'orrore del traffico di ordine dai minori. Che c'entra Caviezel? Che ha fatto? Non lo so, se vuoi apro il link. Allora, lui inoltre ha fatto questo. Gesù Cristo. No, vabbè, ha fatto. Aspetta, ha fatto persone of interest. No, che poi la cosa più sconvolgente è che queste stronzate levano dignità al vero problema, quello ovviamente del turismo sessuale, degli abusi, dei bambini schiavizzati che ci stanno, non è che non esistono, cioè non è che non esista il problema, sì. Però sono che loro certo. Mettono questo problema insieme a tutta l'altra serie di fregnacce, cioè degradano proprio il problema, capisci? Cioè questi sono criminali. Magari è una cosa voluta, Ma si parte queste teorie del complotto, questi deliri partono sempre da basi reali per poi costruirci attorno l'assurdo e la loro narrazione ridicola. Però è chiaro che la delle merda, basi signora, merda Sbano, è tutta merda, cioè. Sì, per carità, sono d'accordo, però dico, io mi immagino, per assurdo, fra 100 il grafene anni. Esiste, che poi non è quello che dicono loro, ma il grafene esiste, per fare un parallelo, no? Come no, loro, il grafene, ti ricordi, ci facevano i proiettili su coso là, su 1800, com'era il gioco quello là che poi è per PlayStation, che con il grafene esplodeva tutto, te lo ricordi? 1889 tipo, ah, sì, cioè, sì, che sì, era pure figo come gioco. Poi... quello con gli uomini lupo là. Sì, bravo. Sì. Beh, cazzo, cioè, quel gioco graficamente fu. Eppure fu dimenticato in fretta perché semplicemente gli specchi. Dal punto di vista dei gameplay. Sì, allora va a fare. Sì, vabbè, allora. Il gameplay era molto semplice, era classico. No, cioè, era molto narrativo, quindi quello c'è stato. Sì, era figo, cioè, ma poi fotograficamente, visivamente, era un capolavoro quel gioco. The Order 1889. Bravo, The Order, bravo. E cioè, il grafene, mi ricordo. C'erano sti proiettili al grafene che facevano scoppiare tutto, ti ricordi? Che scoppiavano. Non mi ricordo. Solo che è una terra rara che non so se all'epoca c'è. Fosse disponibile, rara. Però va bene. Vabbè, tanto c'era Tesla Coraggio da morto, ci poteva essere pure tutto. Cioè, giustamente, certo. Vabbè. Comunque, vabbè. In ogni caso, abbiamo capito che i se volete, sono rapiti. Vabbè, dopo torno invece in salsa cripto. Io... dopo. Allora, sentiamo Puccio, poi Marco e poi torniamo da Walter. Allora, ragazzi, questa settimana su Quora qualcosa non va. Nel senso che finalmente hanno capito che erano stati invasi dai russi, quindi la moderazione ci è andata po' più pesante con l'accettazione dei post, un po' mi sembra che ci sia una sorta di premoderazione, cioè i post che vengono pubblicati non ne appaiono più subito, almeno a me è capitato un paio di volte, appaiono dopo un po'. Quindi penso che sia in corso una qualche forma di controllo sui contenuti, perché diciamo le cose sono un po' rallentate. Sono però sfuggite delle perle abbastanza interessanti, tipo: quanti colpi di pistola posso ricevere e sopravvivere? Seguono esempi. Almeno 4. Beh, glielo devi chiedere al russo che si è suicidato, se lo chiedi a lui. Con 5, appunto, esatto. Sparandoseli da solo, ricordiamoci. Perché sapeva dove sparare. Esempi. Allora, esempi come 50 Cent ne ha presi 9 ed è sopravvissuto. Poi, cioè, un militare francese ne ha presi 4 per fermare un dirottatore, e altri esempi, insomma, di varia natura. Secondo me devi fare la media. Beh, se te dice culo e non te beccano in organi vitali. Cioè, comunque c'è un breaking news importante, ragazzi. Chi vince? Vai. Chi ha segnato? Allora, Agnelli, Rigo Bene e Nedved hanno presentato le dimissioni dalla gestione della Juventus. Proprio smottamento totale. Attenzione che la Juve secondo me finisce proprio brutta stavolta. Oh, hanno avuto, non finisce il campionato, quindi. Oh, hanno avuto un avviso di garanzia, si sono levati di mezzo. No, c'è il processo, c'è il processo penale. D'accordo, però non hanno ancora avuto il rinvio a giudizio, non è manco iniziato. Ma se hanno dato le dimissioni, ragazzi, qualcosa ci deve essere. Agnelli lascia, tutto il CDA si è dimesso, raga, vuol dire che stanno, cioè, veramente hanno trovato la chiave di volta per far crollare tutto. Sarebbe ora, beh. Vabbè, dai, scusa, però Puccio. Quindi alla fine si è capito, no, quanti proiettili ci vogliono per... Almeno 9, da quello che abbiamo capito. Porca puttana, 9. Anche 9. Okay. Segue un altro fantastico. Ma gli atei riescono a capire il concetto di Trinità? La risposta più bella l'ha data tra l'altro un mio collega, scrivendo: sì, e pensiamo che sia una cazzata. Quindi, vabbè, allora, più di quello, che cazzo gli vuoi dire? Basta vedere il dottor Manhattan, cioè lui è perfetto. È così, si spiega così. Cioè, uno fa le cose ingegnose e due trombano. Cioè, meglio, più chiara di così. Cioè, mi sembra chiarissima la cosa. Vai, dici, buccio avanti. Scusate, no, niente, in realtà mentre parlavi mi è venuto in mente una roba che probabilmente Francesco capirà benissimo. Un meme alla radio, ve lo racconto perché ci ho riso 10 minuti. C'è un tizio con Watchmen in mano che è rivolto al pubblico, dice: ah, finalmente sono riuscito a leggere Watchmen, mi è piaciuto tantissimo il personaggio di Rorschach, l'unica cosa che non ho capito è perché sulla sua maschera ci sono sempre disegnati i miei genitori che litigano. Grande, fantastico, fantastico. Francesco, l'ho raccontata alla tua collega, se l'è scritta. Questa va da tenere per le sedute. Attenzione che D-Day.it su Twitter ci dà un consiglio spassionato, proprio spassionato: non mandate mai SMS con il testo opt-in a meno che non sappiate cosa state facendo. Che vuol dire? Sì, è giusto, perché alcuni servizi a pagamento per attivarsi c'è bisogno che tu mandi un messaggio con una frase specifica, una parola specifica. Molto spesso è opt-in perché è quella predefinita di determinate librerie software che servono a fare queste cose. Quindi se tu mandi un messaggio con la scritta opt-in a un numero che non sai che cos'è, magari ti iscrivi a un servizio a pagamento che ti prosciuga il credito e non lo sai. Perfetto, invece al contrario di opt-in è opt-out. Opt-out. Perfetto, se tu li mandi quelli li inculi. Non è detto, perché magari la parola per sganciarti può essere diversa. Tu scrivi opt out e appare una scritta: tu volere culare me? Tu vuoi colare me? Esatto. Vuoi colare me? Fatevelo dire da chi ci ha lavorato per anni: tendenzialmente i sistemi automatici opt in lo raccolgono immediatamente, opt out lo ignorano sistematicamente. Semplice. Però funziona uguale. Insomma. Importante non essere accolti in queste cose. Che bello. Bene, vabbè, quindi Quora ci ha deluso questa settimana. No, Quora questa settimana non tanto, perché ti ripeto, molta della roba tradotta con Google Translate che diventava involontariamente comica hanno iniziato a filtrarla, e devo dire, questa cosa da un certo punto di vista mi fa anche abbastanza piacere. Di contro... Però ti toglie il lavoro. Come? Però ti toglie il lavoro. Non solo, non è tanto che mi togli il lavoro, in realtà adesso le discussioni stranamente più interessanti da seguire, quindi... Poi vabbè, ve ne dico un'altra che abbiamo recuperato dove c'è scritto una marea di cazzate, ma la vediamo dopo, riguardo a Bill Gates. Ma ancora con il rinocchioromo, no? Senti, ma Gualdi, tu invece no. Svetlana l'ha scritto sta settimana, no? No, Svetlana non scrive più, Svetlana. Che peccato però, un po' ci manca, no? No, Svetlana. A me mi scrivo ogni tanto, però li cancello, cazzo. Ok, la prossima volta non li cancello no, più. No, Svetlana ora. No, non devi cancellare i messaggi di Svetlana. Poi ci rimane male. Cioè, lei lo sa. Almeno due o tre volte mi è arrivato, cioè, i miei messaggi da polizia di Mireille Ballestrazzi là, che cazzo era. Almeno sai quelli che mi arrivavano spesso, mi arrivavano quelli che avevo vinto la lotteria del cazzo imperio 200 milioni di dollari. No, a me ha scritto PayPal che mi ha detto che i miei soldi sono bloccati. Quali soldi? C'ho zero. È paziente. Anche a me, però, ho detto: ma non c'ha PayPal. Anche tra l'altro. Ho anche scoperto di avere una PayPal. I soldi di Gualdi sono bloccati. Così mi hanno detto. Esatto. Cioè, se vuoi sbloccarli, clicca qui. Tu hai cliccato, immagino, no? Ecco qua, aspetta, c'ho urgente. Sì, credo che questo ha funzionato perché credo che tu così li abbia dati a Shuren, una cosa del genere. Non è cioè, esatto. Che li sta ancora aspettando. Sì, diciamo. Ah, allora. Urgent convocazione con l'accento sulla Y, poi PDF con il Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Polizia, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Brigata dei Giovani. Convocazione giudiziario alla tua attenzione, fatto a Roma il 6/10/2022. Sono la signora Mireille Ballestrazzi, direttore del Dipartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni, capo della brigata per le protezioni dei minori. La fantasia Ballestrazzi, cioè, ci vuole pure fantasia, tutto sommato. Ti contatto poco dopo un sequestro informatico di infiltrazione informatica autorizzato, in particolare in materia di pedopornografia, pedofilia, cyberpornografia, esibizionismo, traffico sessuale dal 2009. E faccio ma io ho iniziato da prima, cazzo. Siete oggetto di numerosi procedimenti legali in vigore: pornografia infantile, pedofilia, esibizionismo, cyberpornografia. Ancora. Per le tue informazioni, la legge numero 2793 del 5 marzo 2007 del codice penale aumenta le pene quando le proporzioni sono più di 18 centimetri. Le aggressioni sessuali, gli stupri potrebbero essere stati commessi utilizzando internet e tu hai commesso i reati dopo essere stato preso di mira internet, sito pubblicitario, poi durante gli scambi di posta elettronica. Le tue foto di nudo che invia minore tramite il tuo indirizzo IP sono state registrate dal nostro cyber poliziotto e costituiscono prove di cyber poliziotto, il nostro Uber Robocop. Sei pregato di farti sentire via email scrivendoci le tue giustificazioni affinché vengano messi in esame e verificate al fine di valutare le sanzioni. Questo entro un termine rigoroso di 72 ore. Trascorso tale termine saremo obbligati a inviare la nostra denuncia al SIG Edmondo Bruti Liberati. Questo ha preso cognomi stronzi italiani e specialista in cyber crime per dirigere un mandato di cattura ai nostri confronti, inviarla alla polizia più vicina al vostro luogo di residenza per il vostro arresto e denunciati come molestatore sessuale. Ok, quindi il tuo file verrà anche inviato ai media per la diffusione della tua spiegata dell'Italia. Vedranno cosa stai facendo davanti al tuo computer cellulare. Ora sei stato avvisato, cordiali saluti, poi messo incollato si vede la signora Mireille Ballestrazzi virgola e non so più niente, ma ve lo mando che è troppo bello. Tante. Quindi la signora Serbelloni Mazzanti viene dal mare, ti sta inseguendo. Ballestrazzi comunque. Ma, comunque Edmondo, Edmondo Bruti Liberati esiste ed è un magistrato accademico italiano, quindi hanno preso un grazie. Nome. Grazie, credo sia tipo in pensione da una vita. Ma secondo me pure la signora Ballestrazzi esiste. Solo, cioè, una curiosità, questo lo chiedo a te Pucci e te anche a te Alter, ma i cyber poliziotti se teletrasportano all'improvviso davanti a te e te sparano come in Cyberpunk? Senti, non lo so però. Ti cattura, ti viene a catturare, sì. Non ha detto e te spara. Cioè. Guarda, fin quando abbiamo Twitter possiamo chiederlo direttamente a William Gibson, che risponde sempre molto volentieri a queste domande. Io chiederei più a Paul Fenofa, però fate come volete. Non è veramente ma lo sai questa lettera ragazzi, questa lettera che ha ricevuto Francesco, che cos'è che la rende realistica, cioè è proprio credibile, ufficiale? Ma questa è la terza volta che è la bandiera italiana in alto a sinistra, proprio io ho visto tante carte intestate con la bandiera italiana buttata così, esatto, così. Sembra quasi che l'ha scritta Salvini, esatto. Perché veramente ricorda le sue felpe. È casaccio proprio. Beh, comunque secondo me comunque ragazzi seriamente se siete annoiati fate le domande a Gibson su Twitter che risponde per sicuro. provateci. No, io gli hai chiesto qualcosa. Il mio obiettivo è di contattare la signora Ballistrazzi adesso. Cioè. A me quello che fa tenerezza di quelli che fanno queste, tentano queste, questi agganci, no? È, non so se cercano, la buttano solo sui grandi numeri, se magari su un milione una mi dice bene, no? Ma come possono pensare che i traduttori automatici tirino fuori un testo vagamente plausibile quando scrivi una cosa così complessa? Perché questo sarà stato scritto in qualche lingua, probabilmente asiatica o dell'est, e tradotto con Google Translate è venuto fuori questo abominio, no? Poi soprattutto il fatto, loro confidano sul fatto che siamo noi a non sapere l'italiano. No, vabbè, però confidano bene. Beh, tenerezza, alla fine devi sempre considerare che al di là di noi c'è sicuramente qualcuno che ci casca, se no non lo farebbero, cioè, capito? Cioè, questa, queste operazioni di ingegneria sociale, questo phishing continuo, alla fine è talmente, c'è una quantità di materiale che gira, che comunque qualcuno, qualche stronzo che clicca sulla la tua carta di credito sta bloccata, clicca qui, modifica i tuoi dati, capito? Cioè, qualcuno ci casca, cioè, anche per sbaglio. Sì, e non è che mi sbaglio, per ignoranza, perché comunque alla fine. No, magari il cellulare sta, cioè, lo stai a togliere. Tu pensa se ha un signore dei 60 anni che si è appena, diciamo, emancipato nell'usare il computer, c'ha la posta elettronica, ma gli arriva la lettera dei Ballistrazzi, quello si caga a mano. Quindi, cioè, e quindi lui per forza, lui si sente, cioè, la de ha vinto un telefono eccetera, sono quella più che ci casca, infatti è largi your penis. Un'amica, un'amica di Ruth, un'amica di Ruth, cioè vabbè, lascia stare che non era molto centrata, c'è cascata in piena, tipo speso più di, gli hanno svuotato tutta la carta, perché una hai vinto un iPhone 10, ha dato tutti i dati possibili immaginabili, allora, ha svuotato quanti, la carta. Quanti anni c'ha sta amica di Ruth, senza sapere nomi? È all'epoca forse 24-25. Allora, cioè, per me non è ammissibile, 25. Mi dispiace, a 20 anni, 25 anni non è ammissibile, cioè per me lo posso capire se c'hai 50 anni, 60 anni, se no sei stupido, cioè, mi dispiace, non voglio. No, ma lo dici bene, cioè una, l'ho detto, non molto centrata, diciamo così. E quindi se sei non molto centrata o se sei stupido, chi dovrebbe tutelarti in qualche maniera ti deve strappare dalle mani le carte di credito, perché insomma, comunque vabbè, no, dai. Ma sapete una truffa che è andata molto di moda e che veramente richiedeva zero investimento? Dimmelo, così la faccio pure io. Tranquillo, in pratica io ho visto aziende che hanno ricevuto mail che sembravano provenire da loro clienti, semplicemente perché la mail era somigliante e loro non andavano a vedere l'indirizzo reale, ma soltanto quello che leggi nel from, che ci puoi scrivere il cazzo che ti pare, con nomi di clienti che dicevano: senti, guarda, abbiamo dovuto cambiare IBAN perché abbiamo cambiato banca. Da questo momento i pagamenti facceli su questo qui, per favore aggiorna l'anagrafica, grazie mille, eccetera eccetera. Fatto. E c'è gente che poi ha fatto versamenti su questi conti, che assolutamente non erano quelli dei clienti ma quelli del truffatore, che ovviamente nel momento in cui i soldi ci arrivavano sopra venivano svuotati e chiusi, di IBAN non italiani, li ho trovati sudamericani, tedeschi, banche online. Attenzione, attenzione, che capire. Luca S ha trovato Ballistrazzi, ce l'ha linkato. Ah, esiste. Questa cosa richiede veramente pochissimo impegno, cioè è praticamente a costo zero, e ti basta che ci caschi uno che ti fa un versamento da 20.000 euro, come l'ho visto succedere io a una ditta di spedizioni, ed è andata, cioè non li recuperi più quei soldi. Io una truffa del genere l'ho vista in tempo reale, con uno che si è firmato col nome del capo di un dipendente, dicendo: senti, guarda, mi è arrivata questa mail dal cliente che chiede di aggiornare velocemente l'anagrafica, questo è il nuovo IBAN, puoi farlo tu per piacere perché io sono in riunione. Lui non c'è cascato, perché in quel momento il suo capo era davanti a lui che lo stava cazziando. Però sì, questo so. Comunque, sì. Mirel Ballistrazzi è presidente dell'Interpol, quindi insomma. Mica cazzi, Ballistrazzi. Hai capito, Francesco? Io se fossi in te. Allora, quindi subito. Cacchio, che bello. Però vogliamo una versione autografata, cacchio. Esatto. Ma sembra la sorella di Kim Jong-un un po'. Un po' sì, è vero. Comunque, poteva essere un po' più bella, cioè, diciamo. Cioè, questa balestrazzi un po', vabbè, ma lei deve essere determinata, non deve essere bella. Come la Thatcher, no? Che tutti io, cioè, mamma del Cristo. Vai, vai Walter, riprendi. La Thatcher poteva combattere contro Godzilla, quindi insomma. Allora, ragazzi, io qui vorrei che voi mi faceste la sigla dell'angolino Pillolon. Lo dobbiamo fare, c'hai ragione. Come si chiama? Perché, scusa? Ragazzi, Pillon. Lui si chiama Pillon e noi facciamo le pillole di Pillon. Pillon. Quindi tu chiedi e ti viene dato. Alla fine cosa non si sa, però ti viene dato. Assolutamente. In questo caso un pietro, però questo basito Walter, comunque no. Prego no Walter. Perché stavo intanto il cuore, preparando una coronaria. il link per diffondere la parola, perché ovviamente ormai Pillon non è più in Parlamento, quindi si diletta a commentare opere d'arte secondo la sua sistematica visione delle cose. Stavolta se l'è preso con già iniziato malissimo con l'autrice, proprio già iniziato malissimo, esatto. E infatti sentite cosa scrive Frida Kahlo, comunistissima e con orientamento bisessuali, non ha avuto dubbi nel rappresentare la famiglia naturale come luogo della relazione tra maschile e femminile, aperti alle generatività. Notate l'ovocita e lo spermatozoo a ribadire che la vita inizia dal concepimento. E ovviamente è stato simpaticamente bersagliato di commenti come per esempio: se Gesù Cristo avesse voluto dipingere la stessa cosa, chissà che avrebbe uscito fuori. Chissà cosa sarebbe uscito fuori. Chi gli dice: come te sei ridotto, Simo, mamma mia. Chi gli dice: ha il potere di rendere tutto squallido. E qualcuno fa notare come un remida dello squallore, quello che tocca diventa squallore. E poi giustamente commenti tecnici tipo: veramente non è la famiglia naturale, è la famiglia di Frida Kahlo, quella aveva e quella ha dipinto, poi sei arrivato tu e l'hai interpretata così per i tuoi scopi. E infatti tra l'altro c'è scritto nell'opera che è albero genealogico, per cui insomma vabbè, capite che Pillon deve continuare a dare dei significati legati sbagliati a... Sì, ma speculativi. Walter, te l'ho spiegato l'altra settimana, lui sì, non cerca dei significati sbagliati, lui cerca denaro. C'è una persona da querelare. Esatto. Esatto. Lui cerca denaro, quindi è un ma investimento. Infatti ragazzi, la cosa divertente è che a furia di fare questi tweet omofobi contro qualunque forma di libertà dell'individuo e della sessualità, a un certo punto oggi ne scrive uno in cui commenta il fatto che un consigliere lombardo che era, diciamo, prima in quota al centrodestra passa ad Azione, quindi cambia partito. E lui commenta: il consigliere Sanna, ancora nella Lega, lanciava sondaggi contro di me sostenendo l'influencer di sinistra e le follie LGBT nella battaglia sullo Zan. Ora ha fatto quello che doveva andando con Renzi e Calenda. Se uno è a favore del gender, là deve stare, come è giusto che sia. E gli risponde con un sondaggio un utente abbastanza attiva su Twitter che si chiama Madame A, che gli domanda a quel punto in risposta: tutta l'Italia lancia sondaggi contro di te, anche se questo è a tuo favore. Il sondaggio domanda: Pillon è un gay represso? Secondo me voglia finire, allora, vince il sì il 96,1% dei voti. Allora, poi ci saranno pure i bot. Io penso una cosa, cioè in generale tu puoi avere un'idea, ok, e anche essere rigoroso, intransigente su questa idea, ma quando questa idea diventa un'ossessione c'è un problema dietro, capito? Vabbè, non voglio giudicare il personaggio, però solo un parallelo. Enzo Miccio antipatico. È detto tanto perché Enzo Miccio non è che si capito, però insomma chi vuol capir capisca. Andiamo avanti, cari. Vabbè, Francesco. Io quando c'era "ma come ti vesti" gli volevo far fare tipo una diffida per evitare di avvicinarsi a casa mia, Miccio, con tutto il bene del mondo. Francesco, facciamo l'ultimo giro, ma tu Marco poi non hai c'hai qualcosa? C'ho qualche commento. Non ci sono le recensioni. Okay. Allora facciamo ho solo un greco questa settimana, però Francesco e poi Marco, dai, e poi chiudiamo con Puccio e poi saranno tutti a fanculo che... Va bene. Spostandoci sempre da stavolta un pochino dall'ambito dei complottisti, Novax, eccetera, eccetera, sono andato a vedere un pochino, cioè, sti gruppi di crypto investors, ste robe qua, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto mi becco sempre le solite cose, cioè il messaggio tipo in sti gruppi è solo perché la maggior parte delle persone non può farlo non significa che non possa farlo. Ricorda che quasi tutte le persone di successo iniziano con delle convinzioni: il futuro può essere migliore del presente. E con sempre tipo l'immagine da blockchain, sempre screenshot del conto in banca, dei versamenti assurdi, questo l'inoltre. Solo aspetta un attimo che non riesco a entrare nel perché me le ero salvati e non me le ah, ecco qua, ti hanno bannato nel frattempo. Poi gente che gli risponde a sto tizio: congratulazioni, questo è il tipo di azienda che stavamo cercando, Dio benedica i commercianti Luigi per essere stato gentile con noi. Poi risponde un certo Pual, sono tutte gente, persone vere ovviamente, nessun nome è l'incarnazione della conoscenza, questa piattaforma ci ha concesso più conoscenze crittografiche che mai. Poi promo robe del genere, iscriviti ora, blah, blah. Congratulazioni, continua a investire e continua a guadagnare da questa meravigliosa azienda. Congratulazioni per il tuo successo, più successo in arrivo ed aspetta questa piattaforma, eccetera eccetera. So perché di nuovo la persona che cosa bella che poi inoltrano queste cose e poi di nuovo stessi messaggi identici e preciso. Aspettate un attimo, devo ritornare nel gruppo, ci vogliono i tempi tecnici. E poi belle cose, promo, cioè complimenti, oggi ho guadagnato questo e quell'altro, e all'improvviso te becchi un crocifisso con Signore Gesù, mentre entriamo in questo nuovo giorno prego che la tua grazia venga con noi. La scrittura dice che quando Israele stava lasciando l'Egitto, la casa di Giacobbe fuori da persone di lingua straniera, Giuda era il suo santuario e Israele il suo dominio, il mare lo vide e fuggì, il Giordano fu respinto, le montagne saltavano come reti e le collinette come agnelli. Signore, il mare mi ha visto la tua potenza, il Giordano ha visto la tua gloria, le montagne e le piccole colline hanno sentito la tua presenza, ecco perché hanno saltato. Geova, mentre usciamo oggi decreto che la tua gloria venga con noi nel nome di Gesù. Ogni forma di impossibilità, ogni gigantesco ostacolo sul mondo di progredire degli abbonati, investitori, oggi decreto che il fuoco dell'Altissimo scenda su di loro come nel nome di Gesù. Ma perché c'è? Comunque salutiamo Olivia che ci sta ascoltando, me lo ha scritto su WhatsApp perché ha di nuovo Girasole. Salutiamo Girasole perché ha di nuovo il cellulare rotto e può scrivere solo su WhatsApp, quindi che schifo. Però ci fa piacere il fatto che almeno una persona ci sta ascoltando. Fate un PayPal per cellulare, no? Vabbè, ok. Un cellulare. Comunque vabbè. Ah, ma posso scrivere in sto gruppo? È uno di quei gruppi, cioè che devo scrivere? Vi prego, ditemi qualcosa da scrivere. Chi, porco. Dici Cristo Madonna. No, come scrivici. Madonna, fatto. No! Voglio lo screenshot. Vi saluta tutti. Adesso Olivia. Adesso rispondono Vanini, sei tu? Ah, Vanini è lei? Signor Bartolo Vanini. E vabbè, dai, Gualdi, andiamo alle recensioni, ma tanto che aspettiamo le reazioni. Allora, sì, le reaction. In tempo hanno letto, ho visto la doppia spunta. Stavo cercando di capire. Si stanno dando le le frustate, lo prendono come una cosa positiva, quindi amen diranno qualcosa giusto. Mi copio il link del gruppo e me lo butto nell'altro giusto, profilo giusto, così Cristo Madonna giusto bravo, anche la Madonna giusto, sì, Cristo e Madonna va benissimo, mettiamo tutto adesso. Tutti è un rafforzativo, certo. Tutti insieme, cioè, ma figlio e padre, perché ovviamente buonanotte, madre e figlio. No, ma tu immagini questi che leggono sta cosa e se stanno a sentire male, stanno a tirare il cellulare sulla fronte. No, perché... ma no, perché questi lo vedono come c'hanno un'imprecazione, ma lo vedono come una come un'esortazione. Sì. Un'esortazione, giusto? No, ma sono tutti Simone, bot, sono palesemente tutti bot. Cioè. Io adesso vi devo lanciare una richiesta, perché visto che tanto lo sappiamo, l'abbiamo spiegato che la sigla di OGM è Work in Progress. Sì. A questo punto devi campionare Cristo Madonna e ce lo devi mettere. Hai ragione. Ma non chiediamo niente, noi abbiamo l'autorizzazione di default, quindi bravo. Cioè, io c'ho le bobine, le bobine. Esatto. Anche perché se dice qualche cosa la prossima sigla della prossima puntata sarà Cristo Madonna. Esatto. Cristo Madonna, Cristo Madonna. Intanto che aspettiamo insomma eventuali reazioni. Ma non ci saranno. Non ci saranno. Vai, vai Gualdi con allora dalla taverna del Postiglione che è nel nord d'Italia. Nel nord d'Italia. Cioè, ovviamente questo è sempre un ristorante che c'ha 4 e passa stelle. Però io ci andrei sempre a mangiare il posto che si chiama così. Ma intriga la taverna del Postiglione. Cioè, ha una buona recensione, però c'è sempre quello che dà una stella, perché non posso dare meno di una stella, pessima esperienza, un capello nelle lasagne e un fil di ferro nei tortellini. Un fil di ferro addirittura. Cioè, alle giuste lamentele c'è stata data una pessima risposta da parte del proprietario. Può capitare. Come può capitare? Può capitare, ragazzi. Cioè, ma voi non è mai capitato di perdere un capello nel tortellino o un fil di ferro nella lasagna? Il capello ci può anche stare. Cioè, perché comunque. Cioè, tagli un cazzo, vedi il fil di ferro dove ma mi il fil di ferro è una stronzata, dai, su, è una cazzata, dai. Questa è gente che non sa proprio come. Cioè, gli dovrebbero levare il cellulare, tagliare le mani e poi anche la lingua dopo, un pochetto così. Cioè. Poi, e poi Cristo Madonna. Allora, e poi Cristo Madonna. Un'altra recensione. Però io, aspetta, però noi dobbiamo creare un po' di contesto, perché metti che questa ha ordinato un mirto, gli hanno portato un filo ferro. E però gli hanno messo una lasagna. E lui non l'ha capito. È comunque sbagliata, Perché col filo ferro ci hanno mantecato la pasta. No, aspetta, okay. lui ha detto, se ho capito bene, un pelo nella lasagna e fil di ferro nel tortellini. Il fil di ferro nei tortellini. Sì, quindi dentro i tortellini. Magari un ripieno, non lo so, forse per mantenere la forma. Magari forse sì. questi nuovi Giovanni Rana a doppio ripieno, magari, cioè che ne so, c'è il fil di ferro e cozze. Invece c'è quest'altra recensione, sempre dello stesso posto. Esperienza deludente. Nella nostra sala i clienti di altri tavoli stavano urlando e facevano commenti volgari. Cristo Madonna! Che poi sicuramente ero io, cioè. Niente, raga, mi hanno cancellato il commento. No! Pavidi. Censura, lamentati con Elon. Comunque, c'era talmente tanta confusione che non riuscivo a sentire la persona al mio tavolo. Lo abbiamo segnalato al cameriere e al responsabile del ristorante e ci hanno risposto: signora, a Bologna la gente urla. A Bologna la gente urla. Senza intervenire. È vero, è così, senza intervenire in alcun modo. Vabbè, qua praticamente. Signora, la gente a Bologna mena, per quello non. Sì, però la cosa bella è anche la risposta del ristoratore, che poverino si è visto, da quello che ho capito, mettere una recensione al locale a fianco. Riferito al locale a fianco, non siamo noi, guardare bene, il locale si chiama Foodies, tavola fredda, senza cucina, ce ne siamo certi, è confermato dal personale dello stesso locale. Questo poverino beccato una recensione negativa per colpa di un altro, cioè. Però qui c'è un parente del primo da evitare: fil di ferro nei tortellini e capello nel ripieno della un'altra lasagna. Volta sempre, da questo è un parente di quell'altro, perché c'è lo stesso cognome. Vabbè, è una stronzata, io l'ho detto, è una stronzata. Personale arrogante e maleducato. Vabbè, succede. Guarda, io ringrazio Dio di non fare quel lavoro, di non fare il barista, di non fare. Anzi, ringrazio Dio, non fa un cazzo proprio, perché. No, ma è meglio così. Invece c'è questo ristorante che sta a Roma, che si chiama Il Vigneto. È un ristorante cinese giappo you can eat. Siamo stati. Però il Vigneto si chiama, come noi quando siamo andati al Piccantino. Esatto. Perché costa di più togliere l'insegna che lasciare quella vecchia. Esatto, siamo, l'hanno rilevato. Così come abbiamo notato ieri sera dal cinese, che c'è ancora il vecchio nome di fuori. Va benissimo, cioè, tanto non noterai, sono tutti uguali, non noterai mai la differenza. Siamo stati a pranzo, questo lo accorcio perché l'importante, la cosa più importante è il commento del proprietario. Siamo stati a pranzo facendo all you can eat, i camerieri sembrano sotto tortura, al lavoro, non fanno un sorriso, non dicono una parola, di cortesia neanche a pagarli, sembra che ti fanno un favore nel portare i piatti. Oltre a sbagliare. Sono marruvaggi. Oltre a sbagliare le ordinazioni e metterci parecchio tempo con il locale quasi vuoto, avevo ordinato gli spaghetti e la piastra e mi vengono portati invece dentro il piatto. Questo caga il cazzo, se t'hanno portato dentro il piatto non cagare il cazzo, sono sempre la piastra. Quando faccio presente alla cameriera che io volevo quelli della piastra, lei mi risponde che per chi fa all you can eat vengono serviti nel piatto. Secondo me è una stronzata, però vabbè. Ma ci può stare invece. Vabbè, sì. Cioè, no, è stata una stronzata anche, cioè, il commento. Ma il commento del proprietario è lapidario. Allora, dice così: EV4, no, fammi vedere. EV4R4E443R4R4 devi fare lo screenshot. No, devi fare lo screenshot. Lo mando, perché forse si legge meglio. Aspettate, che ve lo mando. Io voglio vedere. Ma probabilmente, Marco, come devi spiegare una cosa? Perché con la tastiera cinese non ha convertito. Google non ha tradotto. Non parla in cinese, ha un italiano. Non c'ha senso. No? Ma lui era talmente incrisomato noto che alla fine. Ferve, R4, come è il codice? È un codice dietro l'istruzione. Questo. Può essere che gli ha craccato il telefono. Vabbè. Una curiosità, sto su Google, su Maps, sì, non riesco a ordinare le recensioni per stelle, diciamo. No, non si può, io infatti vado per il lavoro e andarle a cercare, ragazzi. Che palle, lo so, che palle. Ma ragazzi, a proposito di cose strane da Google, ieri ne ridevo con un amico in chat. Perché non so bene per quale cazzarola di motivo, forse stava spiegando delle cose ad un altro suo conoscente, ha scritto in giapponese, cioè o meglio in inglese, sul traduttore, per farglielo tradurre in italiano, la frase "Ai Daisuke", che sarebbe "Ciao Daisuke", no? Ok? Ci siamo? Ok. Google ha tradotto "Daisuke in Actarus". Perché poi? Voi direte perché? Perché in originale il nome di Duke Fleet, il suo nome di battesimo terrestre, quello che noi chiamiamo Actarus, è Daisuke. Ah, ok. Per qualche motivo Google ha deciso di conseguenza che la traduzione italiana di Daisuke sia Actarus. Così. Sì, perché non riusciamo a capire. Perché non ha capito che che Daisuke fosse un nome proprio. Va molto sulle traduzioni. A volte non sono vere traduzioni, ma sono adattamenti in base a quelle che sono. Sì, vabbè, chissà che c'ha in pasto dentro comunque succede, non soltanto con questo, con queste cose. Cioè, alla fine, ho capito. Con la traduzione, se tu vedi, le traduzioni sono aumentate di qualità, anche se quelle di Google ancora non è che sono granché. Però sono aumentate di qualità negli anni, proprio perché secondo me, comunque, più roba Google metteva in pasto al traduttore, più il traduttore riusciva a trovare delle combinazioni, capito? Quindi. La cosa divertente di quest'amico che cercava di la sua tesi era che probabilmente non era un errore, ma siccome Actarus è il nome di una stella, no? Perché nella nostra versione di Goldrick sono stati dati tutti i nomi di stelle, anche Actarus è il nome Arturo, latino della stella Arturo. E lui cosa ha dedotto? Vabbè, allora evidentemente significa che i giapponesi la stella Actarus la chiamano Daisuke. Vabbè, è un po' come te pare. Che significa Arturo, tra l'altro. Scusa, se facciamo al contrario e scrivi su Google Traduttore, traducimi in italiano ciao Actarus giapponese dall'italiano in giapponese alcol, non è che ti esce così Kabuto? A questo punto potrebbe darsi, certo. Vabbè, ragazzi, ci abbiamo altro? Sì, no, c'è l'ultima una delle ultime recensioni, perché poi c'è anche il Genkai, anche lì ho trovato ah, questa è l'ultima, questa è sempre dell'altro ristorante, della signora Maruaggio, esatto. Viene dopo. Allora, ambiente molto carino ed accogliente, personale gentile e sorridente, sempre il Vigneto, per essere un you can eat giustamente, certo. Come si può scrivere, tu puoi, è soddisfacente, puoi canare questo. Purtroppo c'è poca scelta sui vini da 750 ml vino della casa Vermentino. Io ho preso il Vermentino, suggerisco di dare qualche opzione in più anche con un prezzo più elevato, ma di qualità superiore. I prezzi sono leggermente superiori alla media dei Yucanit, ma soddisfacente tornerò. Va bene, okay. Grazie. Invece un altro ci dice che il post ha perso molto di quello che era all'inizio, ravioli con la pasta durissima e un interno di carne vecchio e stantio, strani moscerini che giravano sui tavolini, non credo che ci tornerò più. Tutto chiaro, no? Ok? Cioè, ok, perfetto. Genkai, adesso passiamo al Genkai, una stella. Ammazza la stella, vabbè, io ciao, Genkai ho sempre mangiato. Ciao, buongiorno. Bene. Educazione. Ciao, buongiorno. Anche a me è capitato allo Stassi, ristorante a via Bragadin. Sono gli stessi. Premetto che sono un po' cliente abituale. Però non tanto, esatto. proprio. Ora come vedono che mangio troppo, diminuiscono le porzioni e ti guardano male. Ma che gente siete voi? Vabbè, cioè, certo, se sei Danilo Giardino, insomma, quello può succedere. Io ho visto proprio chiudere la cucina in faccia praticamente a un certo punto. Salutiamo. Io sta storia continui a raccontarla, ma io ti giuro che non ci credo che ne abbiano fatto. No, come? Ci sono i testimoni, Ma io non c'ero. No, tu non c'eri, ma c'erano i testimoni che a un certo punto gli hanno cominciato a dire. Guarda, perché lui si lamentava che la roba non arriva. Cioè, dopo la sesta settima ordinazione, no? Giustamente, che poi a un certo punto questo. Poi l'hanno rallentato. No, proprio cioè. Certe cose non gliele portavano. Lui cominciava a incazzarsi. Ah, non arriva la roba, cucina chiusa, batta, cucina finito, prodotto finito. Guarda, comunque c'è solo una cosa peggiore di Danilo Giardino e Simone Cusella allo stesso tavolo. Pure sì, sì, no, però no. Danilo stava su, è un professionista. Danilo stava su. No, mi ricordo. Ma tu ti ricordi quella volta in cui andammo tutti al Dinzu? Sì, anche il Dinzu se lo ricorda probabilmente. Il Dinzu, insomma, se lo ricorda, appunto, tra Gusella e Danilo fecero, cioè, non cresceva più l'erba. Cioè, se tu dici, vabbè, perché. Se tu entri dentro un ristorante all you can eat dicendo ah c'è scritto all you can eat quindi io all you can eat, cioè nel senso ma magno fino a che me sfonno, cioè secondo me è una mancanza di rispetto. Quelli ti dicono tu puoi ordina quanto ti pare, però insomma il principio è che sta anche a tuo buon senso, no? Esatto, non è you can eat all, io lo dico sempre. Esatto. Cioè nel senso sta comunque al tuo buon senso a un certo punto, no? Però cioè, in realtà è tutto quello che puoi mangiare, cioè lui, cioè fino a che la versione di Rudini in cui c'è il ristorante only you can eat in cui solo lui c'era la faccia, esatto. Era l'unica persona che poteva mangiare in quel ristorante. Però è giusto quello che dice Marco, cioè lui dice tutto quello che tu puoi mangiare, ma io sono convinto che per principio lui non era arrivato, cioè nel senso io non posso pensare che tu ci avevi ancora fame, capito? È proprio il principio di io devo mangiare fino a che posso. No, però ragazzi, scusatemi, è lo you can eat alla fine va interpretato esattamente come il concetto di minuti illimitati che ti danno gli operatori per le telefonate, che poi nel contratto è spiegato che c'è il fair use, cioè l'uso etico. Non è che mi puoi fare una telefonata infinita perché c'è minuti illimitati. Se a un certo punto rilevo che tu stai esagerando con le telefonate arbitrariamente, ti chiudo la cucina, ti chiudo la linea esattamente come ti chiudo la cucina. D'altronde, vabbè, chi ragazzi, decide che è una cosa, io mi sono sentito è molto, giusta o meno. Voglio bene a Danilo, lo saluto, però insomma lui sa che a questo punto ti senti anche male, cioè ragazzi, sì, esatto, è il problema su se si sente possa avere male, cioè. Il che non vomiti sulla porta del bagno, quella è la cosa importante, insomma. Comunque andiamo, no, l'ultima recensione. Vai, che sono richiesto a 2 stelle. Locale semplice e pulito, servizio buono e veloce, menù semplice, senza stravaganze o particolarità. Spese nella norma. Pecche, cameriere che dopo un po' aveva la camicia bianca sudata. Sto stronzo, ma come si permette di sudare? Perché deve sudare un cameriere? Sto bastardo. Qua gente è proprio a merda, ragazzi. Cioè, nel senso, tu mangi quello se sta a fare un culo incredibile, che magari sarà lavorato. Ma non deve sudare da 6-7 ore. Cioè, ma porca puttana, ma andate a fa un culo, brutti stronzi. Comunque, va bene, ciao. Dai. Ah, non era noi che dicevi andate a fare un culo brutti stronzi? No, perché ero già con un piede sul letto. A noi non ce lo diciamo andate a fare un culo brutti stronzi, che è a prescindere, cioè nel senso è sottinteso, no? A un certo punto. Va bene, ragazzi, io ringrazio Marco Gualdi e le sue bellissime recensioni, grazie. Soprattutto quella se anche voi avete dei ristoranti molto buoni, segnalateci che io vado a vedere le recensioni. O se avete lasciato voi delle recensioni, di cui siete fieri e contenti e felici. Benissimo. Ringrazio anche Walter Sbano. Io vi saluto, vi ringrazio, saluto Luca S che ci ha fatto compagnia, saluto Girasole e faccio presente che noi siamo fan di Pillon, non vi dovesse mai venire in mente un equivoco. C'è ragione. Saluto Francesco, sei ancora nel gruppo o t'hanno cacciato? No, ma hanno solo cancellato il coso. Se volete ci riprovo. insisto. Guarda, lascia perdere, che secondo te va andare i Men in Black. Veramente questa gente strana. Men in Black. Stolta al plurale. Cristi e Madonna. Salutiamo anche Carmine Puccio Console. Ciao a tutti, ragazzi. Mi raccomando, fan nel senso di ventole di pilloni, esatto. Ricordiamo insomma che è uscito Data Nightmare, andatelo assolutamente a sentire. Domani mattina alle 7 esce anche 10 milioni non leggono Nietzsche. Mercoledì sera c'è una bellissima live sul canale YouTube di Archeologia Informatica dedicata al collezionismo, che è veramente un tema abbastanza particolare e delicato. E giovedì sera c'è la puntata di Quando eravamo futuro, dedicata a Spazio 1999. Invece martedì e giovedì, perché mercoledì salta, alle ore 20 la sera, insomma durante l'ora di cena, c'è Walter Sbano con Le orazioni della sera. Detto questo, io penso che per questa puntata ci siamo. Che dite? E se ne stiamo andando, guarda, stiamo sfumando. Oddio, stiamo sfumando.